Lucifer is lonely. Standing there, killing time. Can't commit to anything but a crime. Leaders on vacation. An open invitation. Animals, evidence. Pearly gates look more like a picket fence. Once you get inside them, got friends but can't invite them. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell. Cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My Lucifer is lonely. Look at you, needing me. You know I'm not your friend without some greenery. Walking wearing feathers, Peter should know better. Your cover-up is caving in. Man is such a fool, why are we saving him? Poisoning themselves now, begging for our help. Wow. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell. Cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. Lucifer is lonely. There's nothing left to say. Ciao a tutti. Ciao a tutti, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di La Mucca Libera, l'unico programma antispecista di www.radiasilo.it che è in onda tutti i lunedì dalle 19 alle 20. È in onda tutto il lunedì, ma in realtà oggi riprende dopo la pausa estiva che ci ha visto sospesi e sospese nel periodo di agosto per le vacanze. Il nostro è un programma di aggiornamento con notizie che arrivano dal mondo degli animali umani e non umani, per cui partiamo subito con le prime notizie che in realtà non saranno solo dell'ultima settimana e degli ultimi giorni, ma saranno un po' più ampio raggio visto che abbiamo avuto una chiusura prolungata durante il periodo delle vacanze. Per questo motivo partiamo con una notizia che in realtà risale al 12 agosto, una notizia abbastanza molto direi triste e che in qualche modo ha fatto un po' il giro anche dei social, del web. Il 12 agosto alla Reggia di Caserta un animale che era utilizzato per il trasporto dei turisti, un cavallo, è caduto in terra, a terra all'improvviso ed è morto. Mentre il cavallo era ancora a terra, i turisti che erano lì di passaggio alla Reggia hanno scattato una serie di foto, per cui hanno fatto queste foto hanno fatto un po' il giro del web diventando virali e facendo conoscere quindi a molte persone la tragedia che si era svolta, una vera e propria tragedia molto grave perché il cavallo in realtà ha accusato un malore dovuto alle alte temperature in quel periodo, anche se adesso è un po' rinfrescato, ricordiamo che c'erano delle temperature davvero molto molto alte e questo cavallo appunto trainava sotto il sole i turisti alla Reggia di Caserta, per cui in realtà sostanzialmente ha avuto un malore, stramazzato al suolo ed è morto, come una tragedia terribile come tantissime altre morti sul lavoro anche di animali umani, che ha toccato sicuramente il cuore di tantissime persone E in qualche modo, grazie a questa risonanza, si è cominciato a parlare anche di ciò che porta avere degli animali che con delle temperature, tra l'altro, superiori ai 30 gradi, lavorano e lavorano per la trazione, diciamo, per prestare un servizio di trazione animale. In realtà il governo aveva tempo fa fatto un emendamento che cancellava questo servizio di trazione animale, che un emendamento che era stato approvato in commissione trasporti, questo l'anno scorso, nel periodo di luglio dell'anno scorso, e poi sostanzialmente si era un po' bloccata questo inizio di percorso che avrebbe potuto portare all'abrogazione degli articoli del codice della strada e delle disposizioni di legge che permettono ancora la trazione animale e per questo motivo, anche in seguito a questa tragedia, moltissime persone hanno chiesto che il percorso diciamo, verso appunto questa abrogazione riprenda. Tra l'altro, questo circa una dozzina che alla Reggia di Caserta si sono occupati fino ad agosto appunto della trazione dei turisti, sono in realtà gestiti da una società esterna e non direttamente dalla Reggia di Caserta o dalla direzione della Reggia di Caserta. E ciò che è accaduto è che, visto che il decesso dell'animale era accaduto in circostanze alquanto anomale, il corpo dell'animale è stato sottoposto ad autopsia e nel frattempo la Procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un'indagine. Ha aperto un'indagine innanzitutto per verificare, in base ai risultati dell'autopsia, che il cavallo non subisse maltrattamenti, quali fossero le condizioni del cavallo, e inoltre. Il controllo riguarda anche i vari maneggi, tra cui quello in cui l'animale veniva portato di sera dopo aver svolto il suo lavoro non retribuito al servizio della Reggia di Caserta e anche per questi, in considerazione di questa posizione, diciamo, da parte della Procura di Santa Maria Capua Vetere, la Reggia di Caserta ha deciso già il giorno immediatamente successivo alla morte dell'animale, quindi già dal 13 agosto, di sospendere questo servizio. Per cui in realtà già dal giorno dopo i cavalli hanno smesso di lavorare all'interno della reggia. Dopo qualche giorno, in realtà, la direzione della Reggia di Caserta ha fatto sapere che avevano deciso di sostituire questo servizio definitivamente con delle golf car elettriche. Nel frattempo, qualche giorno dopo ancora, una sorta di giallo ha investito questa situazione del decesso del cavallo, perché in realtà prima dell'autopsia è stato rimosso al cavallo il microchip che in qualche modo, come sappiamo anche per i cani, gli animali domestici, identifica l'animale e si è così rilevato che in realtà il microchip non apparteneva a quel cavallo, ma ad un altro cavallo che era deceduto molti anni prima. Quindi anche su questo sicuramente ci saranno delle indagini della procura. E dopo questa notizia, un'altra notizia però, che è una notizia tristissima, un'altra notizia però un po' più lieta, che riguarda il Palio di Siena. Per l'emergenza Covid, il Palio di Siena, non quest'anno è stato sospeso e è sicuramente una dimensione che a noi fa piacere, ma eccezionale perché da sempre il Palio di Siena è definito come una festa di popolo, quindi una tradizione importantissima da portare avanti. E prima di quest'anno, in realtà, era stata interrotta, aveva subito solamente altre due interruzioni ed era stato solamente per le guerre mondiali, in occasione delle due guerre mondiali, quindi solo delle situazioni eccezionali ed emergenziali lo hanno interrotto e così è stato quest'anno. La cosa però non può che farci felice perché in realtà dal 1975 sono oltre 50 cavalli che sono deceduti a causa di questa festa di popolo che forse sarebbe il caso di abrogare definitivamente. Passiamo adesso ad altre notizie. Rimaniamo sempre in zona Siena, parliamo parlando di una notizia del 29 agosto accaduta appunto tra Siena e Arezzo, tra i comuni di Lucignano e Rapolano. Sono successe delle ricerche, ci sono accadute delle ricerche perché un canguro presente in zona è stato avvistato mentre fuggiva dal luogo in cui era recluso, ovvero la villa di un benestante danese che aveva questa villa appunto tra Arezzo e Siena e aveva lasciato incustoditi questi canguri, questi marsupiali di tipo wallaby, e alla fine c'è stato un intervento della polizia che ha sequestrato la villa. Purtroppo uno di questi canguri che stava in questa casa è morto annegato in piscina nella tenuta di questa persona, questo danese che poi non era presente lì sul luogo. E invece un altro canguro, diciamo fortunatamente, è riuscito a fuggire da questo luogo e non è stato catturato, per cui è stato avvistato più volte in zona, con le persone che l'hanno ripreso, hanno scattato delle foto e hanno fatto girare questa notizia che poi è uscita sui giornali. Quindi un canguro che si aggirava in zona, in un territorio a lui completamente, ovviamente ostile, perché immaginiamo quale può essere una situazione, passare da una cattività in una casa lì, a stare vicino a un'autostrada con la gente che ti filma e la polizia che cerca di catturarti. Quindi questo canguro è stato avvistato, ma è rimasto nei giorni successivi, quindi ricordiamo del 29 agosto questa notizia, è rimasto in giro tra il territorio di Arezzo e Siena. E adesso, dopo queste prime notizie, passiamo un po' a un po' di musica, quindi ascoltiamo un vecchio classico. Torniamo in voce, ho sfumato molto male questo pezzo di Michael Jackson, lo ammetto, ma ammetto che mi creava insomma dei problemi politici, come stavo dicendo qui vicino al mio collega. Non so come mai è partito questo Michael Jackson, quindi chiedo scusa. Thriller, posso dire. È un thriller, ma non di Michael Jackson, giuro che non lo farò mai più. E ritorniamo alle nostre notizie. con qualche notizia anche un po' più recente, arriviamo ai primi di settembre. Il primo settembre è girata un po' la notizia che una grossa azienda zootecnica di Pulsano, che è non molto distante dalla città di Taranto, che dispone di un allevamento molto ampio di oltre 1000 capi tra ovini e caprini, e che opera nel settore della produzione e della vendita ovviamente di tutti i prodotti caseari che nascono dall'allevamento di ovini e caprini, è stata sequestrata da carabinieri in un'azione congiunta con NAS, NIL, carabinieri forestali, anche il personale veterinario dell'ASL, perché nelle zone che erano state, diciamo, adibite ad ovile, dove era solito essere presente il gregge, sono state rinvenute diverse carcasse di animali che erano addirittura in putrefazione, e tra l'altro una volta sequestrata sono stati trovati anche molti resti ossei proprio di capi di bestiame, quindi tantissimi animali saranno morti lì e i cadaveri sono rimasti lì ammassati fino a putrefare. E tra l'altro lì vicino era stata occupata una masseria del Settecento denominata la Lupara, che era stata utilizzata come, diciamo, momento di ricovero di una buona parte dell'allevamento, ripeto, oltre 1000 capi di bestiame che lavoravano per questa azienda, e un frantoio che non era più utilizzato, ma dopo un tempo appunto si effettuava la spremitura delle olive per produrre l'olio, era stato poi adibito e trasformato in una sorta di mattatoio. Quindi sono stati sottoposti a sequestro tutti i prodotti caseari che erano in quel momento, al momento del sequestro, erano lì presenti, che erano circa 1200 kg, e tra l'altro diversi capi, tra i 100 e i 200 capi di... cioè 100-200 animali, loro li chiamano capi, quindi tendevo anche a dire così, ma circa un 200 animali tra ovini e caprini sono stati, per loro è stata disposta la sorveglianza, la vigilanza sanitaria, perché evidentemente versano in delle condizioni di salute molto gravi. Ovviamente a questo, come era facilmente immaginabile, si è aggiunta anche l'osservazione di un'attività, diciamo, di gestione dei rifiuti che non era autorizzata, e soprattutto, come dicevo prima, in quella zona trasformata in mattatoio evidentemente ci sono state delle attività di macellazione non autorizzate, sostanzialmente clandestine. E ovviamente è in dubbio anche la posizione, diciamo, lavorativa dei dipendenti che sono stati trovati in quel momento in azienda. Io dico sempre ovviamente, perché si sa che le oppressioni tra di loro si intersecano, non restano mai così isolate, per cui questa azienda colpiva sotto diversi e tantissimi punti di vista. Un'altra notizia, che anche questa è relativa ai primi di settembre, è una notizia molto triste che riguarda la preapertura della stagione di caccia. Cioè la stagione è partita in anticipo ed è partita il 2 settembre già per 15 regioni, quindi è una sorta di preapertura della stagione di caccia, perché noi sappiamo che esiste una legge che prevede, diciamo, via libera all'apertura della stagione solo dalla terza settimana di settembre in poi, per cui 15 regioni in deroga a questa legge hanno fatto questa concessione ai cacciatori, che evidentemente è una chiara violazione delle leggi italiane, ma non solo, è una chiara violazione anche delle leggi europee, per cui espone l'Italia direttamente al rischio di una procedura di infrazione da parte dell'Unione Europea. Sostanzialmente 15 su 20 regioni, quindi restano fuori solamente Liguria, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige e Veneto. In realtà nel Veneto lo stop è arrivato solamente in ultima battuta, proprio in extremis, perché si è dovuto pronunciare il TAR. Alcune associazioni ambientaliste del Veneto avevano fatto ricorso rispetto a questa decisione di preapertura della stagione di caccia, e il TAR fortunatamente si è espresso a favore delle associazioni ambientaliste, Ed ha, tra l'altro, è sempre il TAR che diciamo, anche in Toscana, per quanto riguarda la regione Toscana, c'è stato un ricorso. Anche il TAR, nel caso della Toscana, aveva deliberato la sospensiva, ma la regione Toscana ha deciso comunque la riapertura della caccia in deroga a partire dal 2 settembre, per cui sia per le torture che per gli storni, per cui in effetti la Toscana è partita. Grazie a una delibera in cui la giunta della regione toscana si rifaceva alla decisione dei giudici amministrativi e stabiliva che un numero massimo, diciamo, di torture prelevabili per giornata e per cacciatore, cioè 5 torture per giornata e per cacciatore, assumendo quindi, asserendo quindi di essere nel rispetto del limite stagionale. Piemonte e Basilicata sono le regioni top, diciamo, quelle che concedono il maggior numero di giornate di caccia in preapertura, ben 8, le Marche ne concedono 7, l'Emilia-Romagna ne concedono 5. E comincia quindi un vero e proprio bollettino di guerra che, diciamo, sicuramente poi subirà delle conseguenze anche da parte dell'Unione Europea. Tra l'altro, per quanto riguarda i volatili, ci sono 12 specie che sono in questo momento, diciamo, nel mirino. Le leggo: la cornacchia grigia, la cornacchia nera, la gazza, la ghiandaia, il colombaccio, il merlo, alzavola, beccaccino, marzaiola, quaglia, germano reale e tortora selvatica. Ed è molto quindi concreto il rischio che l'Italia, appunto, come dicevo prima, diventi oggetto di una procedura di infrazione europea, anche perché è già accaduto questo per altri due paesi, la Francia e la Spagna, e la caccia alla tortora selvatica in questo caso quindi viene autorizzata nonostante ci siano delle richieste internazionali di moratoria, nonostante il Ministero dell'Ambiente italiano si sia opposto, nonostante il piano di gestione nazionale delle specie sconsigli la preapertura, nonostante il parere negativo di tantissimi istituti, a partire dall'ISPRA, che è l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, nonostante le associazioni che si occupano appunto di volatili, come ad esempio a partire dalla notissima Lipu, si esprimano diciamo con parere contrario, e quindi nonostante tutto questo inizia questa preapertura. È ovvio che questo tipo di scelta, tra l'altro, che viene in un periodo di emergenza Covid-19, quindi in cui tantissime attività in realtà sono bloccate. Ricordiamo che noi siamo in uno stato di pandemia dichiarato attualmente fino al 31 ottobre, di quest'anno, quindi è chiaro che una decisione di questo genere è una decisione assolutamente di natura sia economica che politica, e che non a caso avviene poco prima anche di alcune tornate elettorali che sono molto vicine. È ovvio che quindi anche questa anche diciamo pareri contrari rispetto alla riapertura, alle preaperture sono state strumentalizzate da alcuni partiti politici per portare acqua al proprio mulino e per diventare propaganda elettorale, per farne propaganda elettorale. In realtà noi speriamo che sempre più la caccia diventi un incubo che non ci riguarda, non ci riguarda più preaperture o aperture che siano. Passiamo ad un'altra notizia che è sempre dei primi di settembre, perché è arrivata uno studio dell'Università Statale di Milano, che è stato anche pubblicato su una rivista internazionale, e in cui i ricercatori hanno preso in esame le osservazioni di animali in ambienti a loro non usuali che si sono verificate durante il lockdown. Ovviamente questo hanno potuto farlo non grazie ad osservazioni dirette, perché appunto eravamo siamo in lockdown, ma grazie alle notizie, diciamo, che sono state riportate dai media e soprattutto dai social network. Hanno poi prese queste informazioni, le hanno incrociate anche con dei dati di monitoraggio, per cui hanno poi incrociato tutti questi dati e osservazioni anche ai risultati di un questionario che hanno distribuito ai gestori dei parchi italiani, e sono quindi riusciti a trarre alcuni risultati che sono appunto poi stati pubblicati su questa rivista, e in cui sostanzialmente si afferma che per alcune specie quel periodo di lockdown, che è stato per alcune specie soprattutto il periodo in realtà di assenza di disturbo da parte dell'uomo rispetto alla loro vita, ha rappresentato una sorta di felice parentesi, come in qualche modo potevamo anche immaginare rispetto alle notizie di cui abbiamo dato, che abbiamo dato anche da questi stessi microfoni, rispetto alla riappropriazione da parte di alcune specie di spazio e tempi che solitamente allora all'uomo sono negati. E per cui c'è stata anche, soprattutto per quanto riguarda la fauna selvatica in Italia, c'è stata una minore mortalità, c'è stata una maggiore riproduzione, soprattutto per quanto riguarda rospi, rane e uccelli, c'è stato un aumento delle diffusioni di specie invasive non autoctone, mentre contemporaneamente i parchi e le aree protette, come abbiamo anche questo sempre detto in questo periodo da questi microfoni, hanno avuto diverse difficoltà nel riuscire a conservare, diciamo, la loro attività e quindi la biodiversità che in qualche modo sostengono. Mi ha molto colpito il fatto che tra i risultati di questo studio appunto diverse specie sono riuscite a salvarsi rispetto ad altri periodi analoghi degli anni precedenti, che rospi e rane che negli anni passati morivano a migliaia sulle strade schiacciati, in questo caso grazie al nostro lockdown sono riusciti a raggiungere indisturbati laghi e stagni, quindi hanno potuto riprodursi, e diverse specie di uccelli hanno beneficiato della maggiore quantità di cibo a disposizione, del minore disturbo sotto tutti i punti di vista, anche sensoriale, quindi anche acustico, visivo, che viene prodotto da parte dell'uomo, e quindi questa quiete del lockdown ha permesso loro appunto di sopravvivere molto di più e di riprodursi molto di più. Ovviamente queste sono considerazioni che faccio io, ma nello studio erano riportate in realtà come negative anche le possibilità di diffusione di tanti animali che vengono considerati invece invasivi, cioè anche ad esempio venivano portati come esempio anche delle lepri che dall'essere principalmente notturni in quel periodo grazie alla quiete del lockdown erano passati ad essere attivi anche nelle ore diurne, si erano diffusi ulteriormente, avevano raggiunto delle zone che normalmente non raggiungono, ma diciamo questa è ovviamente una visione specista di questo studio che in qualche modo mi sento di condannare. Allora, partiamo dal comune di Agugliano in provincia di Ancona per raccontare una storia che ha avuto un lieto fine ed è molto bella. Mi fa piacere molto raccontarla perché è la fuga di un vitello di 7 mesi da un'azienda agricola, quindi questa fuga per scampare ad una morte certa, ovviamente. Parliamo di aziende agricole che si definiscono biologiche, ma che sono sempre poi adibite, diciamo, destinate all'uccisione degli animali, in questo caso di tre vitelli fratelli tra di loro, che stavano, questo è successo un mese fa, stavano per essere trasportati da un camion verso il loro luogo di detenzione in questa azienda agricola del Marchigiano, e proprio mentre stavano per uscire dal camion uno di questi tre vitellini è riuscito a trovarsi un varco abbassando la paratia, aprendosi un varco in questo dal camion, facendo scappare anche gli altri due fratellini. Sono scappati tutti e tre nella zona circostante questa azienda agricola, e purtroppo due dei tre sono stati catturati, e sono stati catturati con dei narcotici sparati appunto in questa in questa caccia che c'è stata nei minuti successivi alla fuga di tutti e tre i vitelli. Uno di loro, diciamo, questa è la parte lieta, bella di questa notizia, uno di loro è riuscito a scappare. La sua fuga è continuata nei giorni scorsi, nei giorni seguenti, è stato anche avvistato più volte. Ma è riuscito a cavarsela in un territorio che fortunatamente gli ha dato anche la possibilità di continuare a vivere. C'è stato anche braccato un giorno e gli hanno sparato con gli stessi narcotici che erano stati usati per riprendere gli altri due suoi fratellini, ma fortunatamente è riuscito anche a cavarsela a questo tentativo di cattura, e quindi sui giornali abbiamo letto le dichiarazioni dei proprietari di questa azienda agricola che raccontavano appunto come hanno cercato di addormentarlo per recuperarlo, come hanno fatto con gli altri due, ma non ci sono riusciti. Quindi, diciamo, è molto bello leggere queste notizie di fuga e di vittoria degli animali liberati e che si liberano da soli in questo caso, quindi sono animali liberi e resistenti, chiamiamoli col loro nome. Dopo approfondiremo anche questo argomento della resistenza animale. Shirt now, red, my bloody nose sleeping. You're on your tippy toes, creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you. Oh, please, I do what I want when I'm wanting to. My soul, so cynical. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. Tornato torniamo in voce con le nuove notizie dopo una Billy che non era Billie Jean. Sei contento? Sì. Meno male, mi sono ripresa, diciamo, mi perdonerai per quello che ho fatto prima. E comincio da una notizia che si ricollega un po' all'ultima notizia di cui parlavi tu, perché la notizia questa relativa al mese di agosto, che parla di un elefante, anche lui scappato, che ha tentato di recuperare la libertà. E questo elefante è scappato ovviamente da un circo, il circo Amedeo Orfei, che stava facendo tappa a Maruggio, che è una zona, torniamo a parlare della provincia di Taranto dopo l'azienda zootecnica di prima. E, poco dopo Ferragosto, i giorni intorno a Ferragosto, questo elefante è riuscito a saltare i recinti che lo costringevano e ha iniziato a camminare lungo la circonvallazione di Maruggio. Purtroppo, visto che appunto il circo stazionava in una zona pienamente cittadina, non è riuscito a fare altro che a girare sulla circonvallazione, per cui purtroppo dopo un pochino è stato ripreso. Ci dispiace tantissimo. E proseguiamo ancora con un'altra notizia che in qualche modo anche questa si ricollega alle precedenti, perché è una notizia che parla di una specie che appunto viene considerata invasiva, come quelle di cui parlavo precedentemente nello studio, che sono le nutrie, che poi sono tanto carine, sono proprio bellissime. E c'è un allarme nutrie che proprio di questi giorni in Emilia Romagna, perché sono 500.000, e quindi questa popolazione, che appunto è cresciuta anche proprio per le caratteristiche dei mesi precedenti, del lockdown di cui parlavo prima, hanno raggiunto e superato il 500.000 di esemplari, e l'allarme è dovuto al fatto che questo provocherebbe dei danni, diciamo, diretti al territorio per almeno 3 milioni di euro alla zona, e anche dei danni, diciamo, che vengono classificati come indiretti in realtà decine e decine di milioni. Quindi proprio in questi giorni, oggi, ieri e oggi, sono stati lanciati vari appelli dai consorzi di bonifica per poter iniziare un'azione coordinata che avrebbe l'obiettivo di eradicare le nutrie, questo bellissimo roditore, da questo territorio. Ovviamente è una notizia che diamo con grande dispiacere, soprattutto perché è una notizia fortemente specista, perché continua a guardare gli animali non umani come delle specie che, se non sono al servizio dell'uomo, devono in qualche modo fare spazio alla vita dell'uomo e essere addirittura distrutte laddove serva. E per una notizia diciamo molto triste, cerco un po' di compensare con una che mi è piaciuta nonostante tutto, e c'è anche un po' di gossip, quindi piacerà anche a te sicuramente. So che sei un amante del gossip. Proprio ieri è arrivata una lettera via PEC al ministro dell'ambiente, a Sergio Costa. In realtà questa lettera in copia era indirizzata anche al presidente della regione Sardegna, perché da una petizione di cittadini, a cui si sono unite tantissimi VIP in Sardegna, chiedono al ministro dell'ambiente e al presidente di non aprire un allevamento di ostriche nella spiaggia dei Baracconi, quindi nella zona nello specchio di mare, ovviamente, che si trova su questa spiaggia. E si è formato un vero e proprio comitato che si chiama Salviamo la Costa di Golfo Aranci, perché in realtà questo tratto di litorale era già stato concesso perché fosse utilizzato appunto per questo allevamento di ostriche, per cui questo comitato ha lanciato una petizione sul sito change.org, si sono raggiunte 42.000 firme, e tra queste firme compaiono diversi personaggi dello spettacolo, dello sport, anche del mondo scientifico, da Lina Wertmüller a Alicia Colò, che è abbastanza onnipresente in questo tipo di lotte, a anche un campione di basket di cui io sicuramente pronuncerò male il nome perché non ho idea di chi sia, Gigi D'Atome. Sì, famoso. Ah, ok, quindi ho azzeccato l'accento del cognome, che mi poneva diversi dubbi. Quello che mi dispiace è un po', leggendo le, diciamo, le dichiarazioni della portavoce del comitato, è che spesso oltre a dire cose corrette che riguardano la conservazione dell'habitat, delle specie, la conservazione delle specie marine che ci sono in quel sito, però purtroppo questo comitato, nel momento in cui chiede la revoca della concessione per questo impianto, in realtà chiede di individuarne un'altra area che sia fuori dal territorio, da quel territorio, in modo tale da non impattare dal punto di vista ambientale, ma non si fa carico di quella che sarebbe una vera e propria rimostranza antispecista nel dire noi questa, questo allevamento di molluschi non lo vogliamo da nessuna parte. Quindi questo, diciamo, è la cosa che un po' mi dispiace. Ho cercato inutilmente in tutte le dichiarazioni della portavoce di trovare un passaggio in cui fosse detto un no secco, ma non è così. Però ci sono i VIP dello spettacolo, quindi... Infatti l'avevo letta pure io, perché ho interesse di queste, di questo gossip. E quindi sì, condivido il fatto che poi non ci sono le motivazioni corrette da un punto di vista di una lotta, no? Perché è la solita questione not in my garden, come si dice, cioè solamente sotto casa mia, poi non voglio delle situazioni che poi comunque sono di oppressione. O al massimo non solo non sotto casa mia, ma al massimo non le voglio perché non tutelano l'ambiente, ma una zona, sì, in cui l'ambiente è tutelato vanno anche bene. Senza considerare che l'ambiente è 360 gradi, quindi riguarda anche ovviamente le specie di animali, non solamente l'ambiente in quanto aria, acqua, suolo. Certo, certo. No, infatti è un ambientalismo un poco, diciamo, riduttivo, comunque specista. Questo... Greta non lo vorrebbe. Greta è vegana, ricordiamolo. Greta non solo è vegana, diciamo, ha delle... vegano che mi sembra di cogliere antispecista, per quanto magari non dichiarato, però per questo non lo vorrebbe, Greta. Allora, passiamo a un'altra notizia, parliamo di Cassino, e abbiamo un altro vitello che si è liberato e sta circolando nel territorio circostante Cassino, appunto nella regione Lazio, nel territorio di Sant'Angelo. Un vitello che è stato avvistato, però rispetto a quello delle Marche di cui abbiamo parlato prima, non è stato rivendicato, tra virgolette, di proprietà da nessuna azienda. Ci sono alcune ipotesi che fanno nella zona, per cui probabilmente si è liberato da una mandria di allevatori della zona circostante, appunto della zona di Cassino. Però questo vitello è stato avvistato in libertà, sta tranquillo, insomma, nonostante gli sia stata data subito la caccia da parte delle istituzioni locali. Io aggiungerei veramente in maniera vergognosa, senza motivo, perché mi devono spiegare come si possa dire che un vitello che sta in un territorio, diciamo, di campagna sia un pericolo, come hanno affermato le autorità, per chissà che cosa. Cioè, quando parliamo di animali che si liberano, vanno sempre in un territorio che è ostile, quindi poi si dice che sono pericolosi, ma in realtà forse è proprio il contrario, è la realtà che è pericolosa per loro. Tant'è vero che questo vitello è stato vittima di una disposizione firmata dal sindaco della zona, che ha fatto partire la caccia a questo vitello, e come quello precedente di cui abbiamo parlato prima, che è della zona di Ancona, anche questo vitello è stato vittima di un tentativo di cattura. Gli hanno sparato con un anestetico, come si fa in questi casi. Poi ho letto, è sempre istruttivo leggere la stampa in questi casi, perché ho appreso che si parla di teleanestesia in questi casi, che sarebbe quando sparano agli animali, ai vitelli in questo caso. E fortunatamente, come è accaduto nell'episodio precedente, non sono riusciti a colpirlo e anestetizzarlo e quindi a catturarlo, quindi... C'è un vitello che si aggira ancora tra le campagne di Cassino, e noi siamo con lui. E prima di passare ad un nuovo brano musicale, cerchiamo di dare un'altra notizia velocissima che ci riporta in uno zoo, ci riporta perché è uno zoo di cui abbiamo già parlato in delle puntate precedenti, che è uno zoo di Islamabad in Pakistan. E veterinari e studiosi in questo momento stanno sottoponendo a visite e a numerosi esami sia fisici che psicologici, a quanto pare, Kavan, che è l'ultimo elefante che è rimasto in questo zoo di Islamabad, e addirittura è stata lanciata anche una raccolta fondi per poter, insomma, valutare le condizioni appunto fisiche e mentali di questo elefante prima del trasferimento, anche perché ricordiamo, e per questo ne avevamo già parlato di questo zoo, che il trasferimento di due leoni il mese scorso, anzi era il mese di luglio, da parte del governo del Pakistan, era costato la vita ad entrambi i leoni. Kavan è un elefante molto conosciuto non solo da adesso ma già prima, perché era divenuto molto popolare sui social ed era noto per essere l'elefante più solo al mondo, in quanto 8 anni fa la sua compagna era morta e quindi lui era rimasto lì solo nello zoo, e quindi già in quell'occasione si era cominciato a chiedere in qualche modo il suo trasferimento. Ora, se le sue condizioni fisiche e psicologiche lo permetteranno, sarà trasferito in Cambogia. Pare che però già alle prime osservazioni sia obeso ed abbia le unghie in pessime condizioni. Speriamo che possa riprendersi. Per parlare di quello che è un vero e proprio una sorta di approfondimento, perché abbiamo in qualche modo necessità di prendere tutte quelle che sono le notizie che sono state numerose e che riguardano tutto il mese di agosto in cui noi appunto non siamo andati in onda, e ovviamente non possiamo prescindere dalle notizie che riguardano il Trentino e che riguardano gli orsi in Trentino, perché noi ci eravamo lasciati poco prima di Ferragosto, che doveva svolgersi un incontro tra il governatore del Trentino, che è il ministro Fugatti della Lega, il ministro dell'ambiente Costa, e il tema erano proprio gli animali carnivori, selvatici, carnivori, quindi non solo gli orsi, ma anche i lupi e i cinghiali. E questo incontro si è poi effettivamente svolto e dalle dichiarazioni già precedenti da parte del ministro di Fugatti, del governatore Fugatti, avrebbe portato sul tavolo il sovraffollamento, secondo lui, presente all'interno del Trentino, e quindi avrebbe chiesto al ministro di togliere i soggetti considerati pericolosi, considerati in eccesso, e portarli da altre parti. Quindi questa era la premessa da cui partiva questo incontro. Evidentemente le risposte, per quanto sia stato difficile se non impossibile trovare delle notizie in rete rispetto all'andamento di questo incontro, ma è evidente che le notizie non hanno soddisfatto il governatore della Lega, per cui è stato subito lanciato un tavolo congiunto di esperti all'interno del Trentino, quindi senza più, diciamo, interpellare il governo, che doveva decidere il numero massimo di orsi, e hanno utilizzato proprio la parola quote, cioè le quote orsi che avrebbero dovuto avere, le quote lupi, e già da questo linguaggio è chiarissimo che per il ministro è stato subito impiantato anche questo tavolo come un tavolo di natura politica, di natura economica, ma assolutamente non diciamo relativa agli animali veri e propri. Tra l'altro, pochi giorni prima che si svolgesse questo tavolo, c'è stata una lettera che è girata molto sui social, che ha riguardato, e in realtà anche sui media, che era rivolta direttamente a Fugatti, di una persona che in qualche modo si rivolgeva a lui in quanto padre, da figlio in quanto Fugatti, al Fugatti padre, e una lettera, diciamo, che con un intento anche poetico mirava a dire: non si può pensare di rinchiudere gli orsi in queste strutture, a questo punto per loro è meglio abbatterli. Quindi sostanzialmente diceva: ministro, se proprio vuoi rinchiuderli, a questo punto abbi il coraggio e abbattili, dopodiché abbi il coraggio di guardare negli occhi i tuoi figli sapendo che hai ucciso questi orsi. Quindi in un modo anche un po' provocatorio, e non c'è stata risposta da parte del ministro, ma sono partite una serie di risposte invece da tanti altri esponenti, anche politici, fra cui diciamo quelle che mi hanno colpito di più negativo sono, e sostanzialmente erano un coro unico in cui si diceva: la convivenza tra gli orsi e gli umani non è possibile, per cui che siano abbattuti. In questo clima, il 21 di agosto è stato rinvenuto il radiocollare di M49 in una zona, per cui io, felicissima, anche se in vacanza, tifavo ancora M49, e dicevo, senza il radio, pensavo tra me e me, senza il radiocollare diventerà molto più difficile acchiapparlo. Il giorno dopo, il 22 di agosto alle 22:30, in una zona del Trentino che si chiama Andalo, ed è un fatto abbastanza noto, un carabiniere è stato aggredito da un orso, il quale orso, come sempre dopo l'aggressione, si è proceduto a catturato, si è proceduto, diciamo, ad un esposto da parte della regione in cui si disponeva immediatamente la cattura, e purtroppo questo orso è stato immediatamente catturato già la notte stessa, ed è stato portato al recinto del castello, dove tra l'altro si procedeva in quei giorni all'analisi genetica, ipotizzando che potesse essere M57, però senza avere la certezza se non l'analisi genetica. Siamo arrivati quindi al 22, alla notte del 22 di agosto, ma poche notti successive, nella notte tra il 25 e il 26 di agosto, sempre ad Andalo, è stato avvistato un altro orso, quindi laddove il primo che aveva aggredito, tra virgolette, il carabiniere era stato già catturato. E nella stessa notte, anche a Di Mario Folgarite, è stato avvistato un altro orso. Quindi il risultato è che è stato che pochi giorni prima, della fine di agosto, in tutta fretta, si è riunito un comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza a Trento e, che ha trattato il tema, e le parole di Fugatti sono state molto dure. Le leggo, diceva sostanzialmente: anche se non avremo il via libera da parte del Ministero, in caso di necessità provvederemo all'abbattimento di esemplari problematici. E in questo caso lui allargava il discorso non solo agli orsi ma anche ai lupi. Infatti, il giorno dopo, immediatamente si è attivato ed è uscita un'ordinanza da parte della sua regione per la cattura e il trasferimento in via permanente nel recinto del Casteller di questi, quindi, due esemplari di orso bruno che erano stati avvistati in quei giorni e che, secondo lui, erano appunto degli esemplari problematici. Ovviamente questa delibera, in realtà è anche un po', è problematica sotto tanti punti di vista, ovviamente oltre ad essere problematica per noi, ma ha creato dei problemi anche rispetto agli spazi, perché il Casteller può, come recinto, ospitare massimo tre soggetti, e in quel momento lì erano presenti DJ3, che è un orso che lì dal 2011, e questo orso che aveva aggredito il carabiniere, che poi in effetti si è rivelato essere proprio M57, per cui altri due orsi non avrebbero potuto essere lì. E si è iniziato a pensare al trasferimento di DJ3 in un'altra zona. E in quell'occasione sono stati divulgati anche diversi dati rispetto alla presenza degli orsi e dei lupi all'interno del Trentino, e pare da questi dati che ci siano in Trentino 13 branchi di lupi per un totale di circa 80 esemplari, mentre gli orsi, che poco prima della nostra chiusura estiva, della nostra pausa estiva, sembravano essere arrivati a una novantina di esemplari all'interno del Trentino, si è detto sono invece molto vicini alle 100 unità. Nel frattempo, quello che è successo, caso internazionale, ma che comunque è stato ripreso anche in Italia, intorno al 27 di agosto, nell'arcipelago norvegese delle Svalbard, scusate la pronuncia, in un campeggio che è circa 1.300 km dal polo nord, un dipendente di questo campeggio, un uomo di 38 anni, è stato ucciso da un orso polare che è arrivato lì. In quella zona, circa 20-25 mila orsi polari, secondo uno studio recente, rischiano di scomparire entro il 2100 per gli effetti del global warming. Intanto il ghiacciaio marino è in ritirata a causa dei cambiamenti climatici, per cui questi orsi, senza più un terreno di caccia, perché sostanzialmente loro si nutrono delle foche che sono proprio sul ghiacciaio, si avvicinano sempre più al territorio in cui abitano gli esseri umani. E quindi da questo, in realtà, quindi è sempre dallo scempio dell'uomo che deriva questa morte, e morte che però è stata ripresa anche dalle notizie italiane proprio per pompare il più possibile il fatto che gli orsi, anche se non sono polari ma sono bruni nel nostro caso, sono problematici e vanno abbattuti. E quindi si è rimpolpata sempre di più questa polemica, che purtroppo culmina oggi in una notizia tristissima che non avremmo mai voluto dare, ossia che M49, il nostro eroe, è stato catturato. È una notizia di stamattina, circa intorno all'una, l'ANSA ci ha dato questa bruttissima notizia, e è stato preso, nonostante fosse senza radiocollare, nel comune di Casteltesino, e è stato preso grazie a un tubo, delle trappole a tubo, diciamo, che sono state posizionate nell'area in cui si stava muovendo, e quindi hanno bloccato così la sua fuga. Ovviamente è stato sedato, monitorato, è stato subito portato al Casteller, dove quindi adesso sono in tre. E ovviamente il recinto è stato subito, sono subi stati subito iniziati dei lavori per modificare, per rinforzare il recinto, perché ricordiamo che il nostro eroe è riuscito da quel recinto a fuggire già ben due volte. Speriamo che ci riesca anche la terza. E con queste notizie che riguardano gli orsi, che noi seguiamo sempre con molto affetto e molta attenzione, ci salutiamo e vi ricordiamo,